vita che tre mille, mille vite, il destino in catena, se perduto della patria, se perduto della patria, dal tuo splendido Oh.